Ellie. Ascolta e completa le parole. Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse. Alcuni di noi stanno all'estero. Non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo, possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti. Ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase. Una di quelle frasi antiche sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire «Non siamo venuti a Bergamo a far campagna» per ritrovare ad un tratto la nostra infanzia e giovinezza. Una di queste frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro nel buio di una grotta fra milioni di persone.